Ragionate con calma, moltiplicate prima i numeri isolati, poi pensate alle potenze di 10. Avete un 10 alla quinta e un 10 alla terza moltiplicati.